Ad alta voce, Maria Paiato legge Gli ultimi anni di Clelia Trotti, di Giorgio Bassani. Seduto sul bordo di pietra del sagrato, in buona posizione per vedere ogni cosa, l'onorevole Bottecchiari là, in attesa di poter ricominciare il suo discorso, e qui, a 2 o 3 metri di distanza, la ragazza della Vespa, con i cui occhi azzurri proprio in quell'attimo i suoi occhi stavano incrociandosi, Bruno Lattes trasalì. Si sentiva a disagio. Il seguito di questa storia spiegherà perché. E chinò il capo. Quando, dopo qualche secondo, lo rialzò, la ragazza guardava già altrove. Adesso fissava, decisamente ironica, un ragazzo all'incirca suo coetaneo, come lei biondissimo, e con la medesima espressione dura e indifferente nelle iridi chiare. La racchetta da tennis infilata fra le gambe, e il golf bianco annodato per le maniche attorno al collo. L'altro le stava giusto di fronte, seduto anche lui sul bordo del sagrato. I due, era chiaro, filavano assieme, pensò Bruno Lattes. Per questo si erano dati appuntamento lì, in piazza della Certosa. Ma chi era lei? Di chi era figlia? Seguitò, attratto improvvisamente, spasmodicamente, dal nastro rosso che legava i capelli della fanciulla. Possibile che la guerra, gli anni nei quali lui era stato ragazzo e lei bambina, non le avessero lasciato addosso la minima traccia? Possibile che dovunque, in Italia, gli adolescenti fossero ormai così, come se uscissero teenager signari di tutto dalle pagine di una rivista illustrata americana. «Ti aspetto da quasi mezz'ora», diceva il giovane tennista senza dar segno di volere alzarsi. «E ti lamenti?» rispose la ragazza. Accennò con una piccola smorfia beffarda alla piazza brulicante di folla. «Avevi da passare il tempo, mi pare». «Shh! Silenzio!» ripeterono per la terza volta gli uomini arrampicati sui paracarri. Il ragazzo assunse un'aria da duro del cinema. Indicò sogghignando lo scooter. «Vogliamo piantarla con quella manina nervosa?» «Andiamo via piuttosto», si lagnò la ragazza, anche se frattanto, scesa di sella e spento il motore, si metteva a sedere a fianco dell'amico. «Ma cos'è che vuoi? Fermarti qua?» «Davanti a questo feretro che racchiude le spoglie mortali di Clelia Trotti, della nostra indimenticabile Clelia», aveva già riattaccato dal canto suo l'onorevole Bottecchiari, con un tono di voce preannunziante le grosse lacrime che tra un momento avrebbero cominciato a rigargli le guance apoplettiche. «Non posso, compagni, amici, con cittadini tutti, non riandare subito indietro a un comune passato. Se ben ricordo, ci conoscemmo, Clelia Trotti e io che vi parlo, nell'aprile del 1904. Giratosi lentamente, Bruno Lattes tornò a guardare dalla parte dell'oratore, ma di nuovo trasalì. L'ometto vestito di nero, che rigido, impettito, si teneva laggiù in fondo, a lato dell'onorevole Bottecchiari. Non lo conosceva, forse. Non si trattava mica di Cesare Rovigatti, del ciabattino di Piazza Santa Maria in Vado. Quanto poco tempo era passato, si disse quindi con dolore. Da quando lui, dopo il 25 luglio del 43, nell'agosto, aveva lasciato Ferrara per Roma e poi nemmeno un anno più tardi, per gli Stati Uniti d'America. E tuttavia, quante cose erano successe in quel poco tempo. All'inizio di quell'ultimo atroce triennio, i suoi genitori, che mai avevano creduto di dover fuggire, mai avevano accettato di fornirsi di carte false, erano stati portati via dai tedeschi. E i loro due nomi, adesso, figuravano insieme con quasi 200 altri nella lapide che la comunità israelitica aveva fatto porre sulla facciata del tempio in via Mazzini. E lui? Lui, al contrario, da Ferrara era scappato. Se n'era allontanato al momento giusto per non subire la stessa sorte di suo padre e di sua madre, oppure, magari, per non farsi fucilare nel dicembre successivo da quelli di Salò. Col guadagno, a parte quello di aver salvato la pelle, di trovarsi ormai avviato verso una dignitosa, tranquilla carriera universitaria. Non era ancora che un incaricato, si intende, un semplice lettore in italiano, ma presto sarebbe stato assunto in pianta stabile, cosa che in seguito gli avrebbe permesso, al termine di qualche altro mese supplementare d'attesa, di ottenere la sospiratissima cittadinanza americana. Gli ultimi 3 anni contavano, insomma, come un'intera vita. Eppure Rovigatti, se Dio vuole, continuava a pensare Bruno Lattes, e intanto, senza rendersene conto, faceva di sì col capo, approvando. Rovigatti, perfino nei neri capelli brizzolati, rimasti più o meno tali e quali, non sembrava invecchiato quasi per nulla. Non diversamente dall'onorevole Bottecchiari e da tutti gli altri antifascisti ferraresi, oggi presenti in forma ufficiale ai funerali di Clelia Trotti, che lui aveva conosciuto e frequentato a uno, a cominciare dal 39. Non diversamente da Ferrara, che, a parte i guasti prodotti dalla guerra, del resto in via di rapida riparazione, gli era sembrata fino dal primo istante uguale, identica alla città della sua infanzia e della sua adolescenza, pur se spogliata di ogni suppellettile. La casa medesima dove lui era nato e cresciuto gli era stata restituita intatta, intatta come un guscio vuoto. Anche per Rovigatti, soprattutto per lui, anzi, pareva che il tempo fosse trascorso invano, si fosse addirittura fermato. «Eccolo dunque là», concluse, «il vecchio, piccolo mondo provinciale che si era lasciato dietro le spalle. Quasi rifatti in cera. Eccoli dunque là, tutti. Identici tutti quanti a se stessi. Ma Clelia Trotti? L'ultima volta che lui l'aveva incontrata era stato proprio lì, in piazza della Certosa, pressoché nello stesso punto dove adesso posava la sua bara, il giorno avanti di partire. E nella sua memoria, durante i lunghissimi 40 mesi successivi, Clelia Trotti non era mai cambiata. Come avrebbe voluto ora poter ritrovare anche lei così, fissata in cera, immobile come una statuetta grottesca di cui, fra scherno e pietà, gli fosse dato disporre a suo piacimento. Le avrebbe detto sorridendo: «Lo vede se avevo ragione quando le promettevo che sarei tornato? Lo vede se aveva torto lei a non credermi?» Che non cambiasse mai, che rimanesse sempre uguale a come l'aveva vista l'ultimo pomeriggio, prima di andarsene, prima di tagliar la corda e salvarsi. Questo avrebbe preteso anche da lei, se lei intanto non fosse morta. Nel tardo autunno del 1939, quando, pressappoco un anno di distanza dalla promulgazione delle leggi razziali, decise di muovere alla ricerca di Clelia Trotti, di lei, Bruno Lattes, non sapeva ancora quasi niente. Per semplice sentito dire, gli risultava che fosse una donnetta rinsecchita e trasandata di quasi 60 anni. Qualcosa come una beghina all'aspetto, che uno a incontrarla per istrada neppure l'avrebbe notata. Ma d'altra parte, chi mai allora a Ferrara poteva affermare di conoscerla di persona e addirittura si rammentava che esistesse? Perfino l'onorevole Bottecchiari, nonostante che in gioventù l'avesse praticata moltissimo, avendo diretto insieme con lei all'inizio della propria carriera politica la leggendaria Fiaccola del Popolo. Erano stati anche amanti, a quanto si sussurrava, almeno fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Perfino lui, da principio, aveva l'aria di averne perduto completamente le tracce. «Ecco qua il nostro piccolo Lattes!» aveva infatti gridato l'onorevole da dietro l'imponente tavolo stile Rinascimento che gli serviva da scrivania, quella volta che Bruno si era recato apposta al suo studio per racimolare qualche notizia sulla vecchia maestra. «Ma avanti, avanti!» aggiunse allegramente, vedendolo sostare incerto sulla soglia. «Come sta il papà?» Così dicendo, tendeva a Bruno la destra poderosa in segno di saluto e di incoraggiamento, e intanto, levatosi a mezzo dal comodo scranno avvocatesco, tutto foderato di raso rosso, lo squadrava compiaciuto da capo a piedi. Se non che, non appena lo udì nominare la Trotti, fu pronto a chiudersi nel più cauto dei riserbi. «Ma sì, aspetta un po'», rispose con imbarazzo evidente. «Qualcuno, non ricordo più chi, deve avermi riferito che stia, che sia andata a stare dalle parti del Saraceno, di via Belfiore». Portò quindi il discorso su altri argomenti: sulla guerra, sulla drôle de guerre, sul probabile intervento dell'Italia, anzi di Mussolini, sui prossimi possibili colpi di Hitler. «Eh già», dicevano nel frattempo i suoi occhi azzurri, pieni di rosse venuzze, lampeggianti di ironico trionfo. «Eh già, per 20 anni mi avete guardato con sospetto, evitato e spregiato anche voi, come antifascista, come sovversivo, come avversario del regime. E adesso che il vostro bel regime vi butta fuori, adesso eccovi a Canossa, con tanto di orecchie basse e di coda fra le gambe». Discorreva sempre di tutt'altro nel mentre, mai allontanandosi dal campo della politica internazionale e da quel tipo di elucubrazioni di argomento militare di cui ormai, quando la radio trasmetteva le quotidiane notizie della guerra ferma la linea Maginot, traboccava il caffè della borsa stesso. Almeno per quella volta non voleva, era chiaro, pensò Bruno, che il colloquio uscisse da un simile genere di binari. Il tono di blanda complicità della sua voce non doveva ingenerare in chi l'ascoltava nessun tipo di equivoci. A giustificarlo doveva bastare l'amicizia che fino dai tempi remoti del loro liceo aveva sempre legato lui, Bottecchiari, a suo padre avvocato, richiamandosi per tacito accordo alla quale, piuttosto che amicizia per la verità, sarebbe stato meglio chiamarla ovvia considerazione fra borghesi benestanti e colleghi, erano pur sempre continuati fra i due, anche dopo la marcia su Roma, anche dopo il delitto Matteotti, i saluti solenni e confidenziali, scambiati sorridendo a distanza da un marciapiede all'altro di Corso Giovecca, tanto che più tardi, al termine del loro simpatico conciliabolo, così si era espresso l'onorevole, rappresentò una straordinaria sorpresa per Bruno che fosse proprio lui, l'onorevole, in procinto di accomiatarlo, a tornare spontaneamente sul tema di Clelia Trotti. Se ti riesce di agganciarla, salutamela, disse con un ghigno cordiale, battendo una mano sulla spalla di Bruno attraverso l'uscio mezzo accostato. E poi, sottovoce, non conosci Rovigatti? Cesare Rovigatti, il ciabattino che ha la bottega in piazza Santa Maria in Vado, di fianco alla chiesa. Ci siamo sempre fatti risuolare le scarpe da lui, sfuggì detto a Bruno, e sentì che arrossiva. Ma perché? Ecco uno che può dirti dove sta la Trotti, spiegò l'onorevole. Va a trovarlo, domandaglielo. Ma attenzione, soggiunse in un soffio. La fessura della porta a vetri smerigliati si era intanto ridotta a uno spiraglio. Bada bene che lei è sorvegliata. Quando fu da basso, in procinto di varcare la soglia del portone, per prima cosa Bruno guardò al quadrante fiocamente illuminato dell'orologio di piazza. Erano 7:00. Perché non ci sarebbe andato subito da Rovigatti? Se si spicciava, poteva benissimo trovarlo ancora nel suo stambugio. Quello era tipo da non chiudere mai prima delle 8:00, 8:30. Attese il momento più propizio per scivolare fuori senza dare nell'occhio. Alla fine si decise e, attraversato in fretta lo slargo antistante, a quell'ora gremito come sempre di folla, si cacciò sotto i portici del Duomo. Camminava più adagio adesso, le mani affondate nelle tasche dell'impermeabile, e contemporaneamente pensava all'ambigua accoglienza dell'onorevole. Rivedeva il suo viso, quale gli era apparso da ultimo attraverso la porta socchiusa. Aveva detto Rovigatti e insieme aveva ammiccato. Ebbene, che cosa voleva significare l'onorevole Bottecchiari con quell'ammicco di intesa? Davvero aveva voluto, con quella smorfia piuttosto volgare e col nome che aveva sussurrato, chiedergli indirettamente scusa per essersi tenuto durante il loro colloquio un po' troppo sulle generali? O invece non aveva voluto magari alludere al legame che un tempo lo aveva unito e forse, chissà, tuttora lo univa in segreto all'antica compagna di partito? Allusione questa sufficiente, era chiaro, a togliere anche al poco già detto qualsiasi peso politico. Infatti, era proprio così che ci si comportava di solito a Ferrara, quando, un po' vantandosene e un po' vergognandosene, ci si confidava da uomo a uomo, ma tra borghesi soprattutto, una relazione con una ragazza del popolo. Esattamente così, e da tempo immemorabile. Ma d'altra parte, non era abbastanza strano che l'onorevole Bottecchiari, un ex deputato socialista, un vecchio antifascista, uno che in apparenza non aveva mai chinato il capo, accettasse di assumere, non importa se per scherzo o per civetteria, la grinta melensa e crudele del gregge conformista che occupava arrogante le strade, i caffè, i cinema, le sale da ballo, i campi sportivi, le botteghe di barbiere, perfino le case di tolleranza, escludendone d'imperio chiunque fosse o sembrasse diverso. La verità era che nemmeno l'onorevole Bottecchiari ce l'aveva fatta a passare senza danno, senza corrompere il suo carattere, la sua dritta e fiera gioventù sotto il torchio di quei decenni, dal 15 al 39, che avevano veduto a Ferrara, come dappertutto in Italia, la degenerazione progressiva di ogni valore. Sì, certo, i suoi colleghi avvocati, tutti quanti fascistissimi, schiumavano letteralmente di rabbia ogni qualvolta lui, perorando in tribunale, faceva capire come la pensasse. Più di uno avrebbe senza dubbio voluto farglisi sotto, prenderlo per i risvolti della toga e gridargli, a muso duro, «Lei ha inteso insinuare questo e questo, eh? Lo ammetta!» Ma la sostanza era che lo avevano sempre lasciato cantare. Paghi, alla fine, di aver costretto una volta di più il vecchio lottatore a quel suo eterno dire e non dire, a quel suo alludere continuo, senza riposo, che attraverso gli anni era diventato in lui una specie di tic, di vizio, l'espressione quasi di una seconda natura. Ma che, se l'onorevole Bottecchiari, nonostante il suo passato, si era sempre potuto permettere, reduce dallo studio o dal tribunale e diretto a casa, di scendere ogni giorno a piedi per Corso Giovecca sventolando spavaldamente in distanza la zazzera bianchissima, addirittura luminosa, in faccia ai pochi amici e ai molti avversari. Tutto ciò non era accaduto senza che anche lui, nel profondo, ci avesse rimesso qualcosa. Chiuso in questi pensieri, che gli stringevano il cuore in una morsa di angoscia, urtando nei passanti e lasciandosene urtare, Bruno risalì lentamente via Mazzini e via Saraceno. «Che schifo!» sibilava ogni tanto fra i denti. Guardava con odio le vetrine sfavillanti, la gente ferma di fronte ai cristalli a osservare la merce esposta, i commercianti che si facevano sulle soglie delle loro botteghe e dei loro negozi, abbastanza simili negli atteggiamenti, si diceva, alle megere che vigilano, sempre mezze dentro e mezze fuori, le porte dei casini di via Colomba, via Sacca e dintorni. Ancora invischiato dalla passione che fino all'agosto di quello stesso anno lo aveva reso schiavo di una delle più brillanti e corteggiate ragazze di Ferrara, l'Adriana Trentini, specialmente le donne che venivano avanti in senso contrario al suo e lo sfioravano senza notarlo, le belle, le bionde e le eleganti in particolare, gli sembrava che in tutto il loro modo di essere e di fare, insieme adorabile e detestabile, portassero impresso il marchio mal dissimulato della depravazione. «Che marciume, che vergogna!» continuava a ripetere furibondo, nemmeno tanto sottovoce. Eppure, a mano che procedeva e le vie si facevano più anguste e meno rischiarate, la sua rabbia e il suo disgusto scemavano. Imboccata a sinistra via Borgo di Sotto, arrivò così fino all'altezza di via Belfiore. Stava per attraversare, ma dalle persiane serrate delle case di via Belfiore, almeno fino al punto dove la stradetta faceva gomito, non filtrava che qualche sparso lume giallastro. A chi rivolgersi? A quale campanello suonare? Ormai la gente cenava, a casa sua fra l'altro dovevano già aspettarlo. Ricordandosi di Rovigatti, finì col proseguire.